take the bomb. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Io sono Rachele Copparoni e bentornati, bentornate, benvenuti o benvenute in questa nuovissima puntata di Fuji Comics. E torna in questo mercoledì 29 gennaio, ultimo mercoledì di questo primo mese del 2020. Tra l'altro sono anche, dicevamo in redazione, i giorni della merla, i giorni in cui dovrebbe essere più freddo di tutto l'anno, e invece in realtà anche oggi il sole splende dietro le mie spalle in via Zanardi 369. Siamo un po' contenti di questo, anche se come sempre un po' preoccupati per queste temperature, diciamo un po' assurde per fine gennaio. Ma torniamo a noi, ore 10.32, inizia ufficialmente questa 15ª puntata di Fuji Comics, il format che va in onda tutti i mercoledì dalle 10.30 a mezzogiorno e mezza, in cui si parla come sempre di fumetti, di graphic novel, interviste, momenti di incontri, novità su questo grande mondo del comics, insomma tutto quello che riguarda i fumetti. Ricordiamo anche subito le varie modalità con cui potete contattarci. Allora, innanzitutto il nostro numero di telefono in cui potete mandare un sms, un messaggino tramite WhatsApp oppure su Telegram al 333 180 9494. Ve lo ripeto anche più con calma: 333 180 9494. E ovviamente seguite anche tutte le nostre pagine social, a partire da quelle della radio, quindi su Facebook, su Instagram. Andate sul nostro sito www.radiocittafujiko.it per guardare tutti quanti i nostri, insomma, articoli, interviste, tutti i contenuti della redazione musicale, culturale e ovviamente anche la giornalistica. E andate anche a sbirciare le varie pagine social di Fuji Comics, quindi sia su Facebook che su Instagram, per vedere un po' il dietro le quinte, la preparazione delle puntate, qualche spoiler, qualche anticipazione di tutte le puntate che ci sono ogni mercoledì, sempre dalle 10.30 a mezzogiorno e 30. Ma partiamo anche con una novità per quanto riguarda la musica. Infatti il 17 gennaio, quindi veramente poco tempo fa, è uscito un nuovo brano di Margherita Vicario, cantante e anche attrice italiana, romana precisamente, classe 1988, che vi ho già fatto ascoltare qualche volta qui su Fuji Comics. La nuova canzone, uscita appunto il 17 gennaio, si intitola Giubbottino, e la stessa Margherita Vicario dice: è per tutte le parole che mi sono strozzata in gola con i miei amori, amanti e uomini, per tutti quelli che fanno i fighi con i giubbottini e con gli occhiali da sole, per tutti quelli che sembrano interessati e interessanti, ma in realtà non ti vedono e non ti ascoltano. E non riescono ad entrare in contatto profondamente, anche solo per una notte magari, ma comunque profondamente. Giubbottino è una cavalcata divertente e imperfetta, molto meglio di un porno. È una canzone perfetta per iniziare questi anni venti del 2000, perché sarà il decennio delle donne. Per questo mi permetto di dire loro la mia. E ci auguriamo proprio che questo sia l'anno delle donne, e con questa speranza ci ascoltiamo Giubbottino di Margherita Vicario. Che quello che dico, che faccio, che scrivo, che penso a te forse non ti piace. Ma allora com'è che non cambi canale se senti una donna parlare per 5 minuti d'amore e la cosa non ti dà pace? Vuoi uscire, ti cambi mutande, chiedi da bere, c'è chi consiglia, eviti quelle che vogliono figli. Ma sotto sotto sei come un biscotto, il problema è più grosso. Dettaglio, piccolo dettaglio, trasformerai in un accendi la luce, ma forse è lei che non ti piace. L'odore, le stelle, la giacca di pelle, non devi guardare le foto la notte, le donne, le botte rovinano l'estate. L'America alle porte, troppo latte, poi troppo porno, mamma mi drogo ma non ogni giorno, eppure c'è soldi, ti giuro non molti. Era Margherita Vicario con Giubbottino, la novità, la prima novità di questa playlist di Fuji Comics. Ma veniamo un po' a noi e torniamo a parlare per guardare un po' all'interno del menu di questa puntata di oggi, di questa 15ª puntata di Fuji Comics. Allora, finalmente torna in maniera ufficiale ed ufficiosa il consiglio della settimana, non dato da me ma da una delle artiste che sono state ospiti precisamente della scorsa puntata di Fuji Comics, e sto parlando di Abby, Elisabetta Pervinciati, questa giovane ragazza italiana, questa fumettista torinese che appunto abbiamo intervistato settimana scorsa per parlare di Tak, Perdersi in Islanda, e durante l'intervista ci ha dato un po' un suo consiglio di lettura di una delle novità che sono uscite appunto per il Luca Comics del 2019, che proprio la stessa Epi ha comprato durante i giorni del Luca Comics. Successivamente ci sarà la classica intervista che contraddistingue un po' questo format, e oggi siamo andati a parlare con Mattia Moro, un giovane fumettista ormai adottato bolognese, anche se è di origini abruzzesi, ma insomma sono più di 10 anni che vive in questa città, e soprattutto che vive nella Bolognina, perché proprio di questo quartiere siamo andati a parlare. Infatti l'intervista sarà incentrata su Quartieri, un fumetto uscito per Becco Giallo Edizioni, in cui Mattia Moro insieme ad altri 4 giovani fumettisti hanno cercato di raccontare un po' le periferie di 5 città italiane differenti, e con Mattia abbiamo proprio parlato della Bolognina, di questo quartiere che cambia molto spesso, quindi di tutti i suoi cambiamenti, dei suoi spazi di aggregazione. Abbiamo parlato anche di basket, insomma abbiamo un po' snocciolato la Bolognina e tutto ciò che fa parte appunto di quel quartiere, e non solo di quartiere abbiamo parlato, ma anche di Cartoline dalla Bolognina, un altro progetto che vede Mattia Moro come uno dei protagonisti, e abbiamo parlato appunto di Cartoline dalla Bolognina pubblicato dal Checkpoint Charlie. Successivamente si parlerà come sempre di qualche novità in uscita del mondo comics, quindi di fumetti graphic novel, torneremo anche a parlare di fumetti nei musei, e ovviamente anche gli eventi a Bologna di questa settimana, da questo mercoledì fino al prossimo mercoledì, che si va direttamente a febbraio, e ci sposteremo anche a Milano, perché questo fine settimana, quindi se non mi sbaglio l'1 e il 2 febbraio, Milano sarà

Abbiamo appena ascoltato Alicia Keys con la sua nuova uscita Underdog per il nuovo album che si intitola appunto Alicia. Ma veniamo a parlare di fumetti, o anzi meglio, veniamo a parlare di consigli di lettura sui fumetti, perché come vi anticipavo prima nel menu della puntata, finalmente è tornata ufficialmente, ufficiosamente questa rubrica in cui appunto un artista, un fumettista o una fumettista che è ospite delle mie puntate di Fuji Comics ci consiglia anche qualche cosa da leggere. Oggi andremo a sentire che cosa ci ha consigliato Epi, Elisabetta Pervinciati, giovane artista nata a Torino nell'87, lavora come graphic designer, illustratrice e disegnatrice. A 17 anni finisce in Islanda per motivi di studio e anche un po' per sbaglio e se ne innamora perdutamente. A 24 anni, in seguito a un concorso nazionale, vince un bando per realizzare un progetto artistico su questa terra e sul particolare delicato rapporto dei suoi abitanti con la natura. Da allora non ha mai smesso di visitare l'Islanda e appunto con lei abbiamo parlato nella scorsa puntata. Se vi siete persi qualcosa, mi raccomando, andate sul sito www.radiocittafugico.it per andare a leggere l'articolo dedicato ad Epi e al suo TAC Perdersi in Islanda con la relativa intervista. Appunto con Epi abbiamo parlato del suo fumetto TAC Perdersi in Islanda, in cui questa giovane fumettista italiana finisce per errore per un problema di trascrizione tra Islanda e Irlanda, finisce appunto per errore in Islanda, se ne innamora perdutamente e appunto questo fumetto è il resoconto di 14 anni di vita e di ricordi minuziosamente raccolti in questo libro, che parla veramente a tutto tondo di una nazione che è così distante da noi, che conosciamo così poco, ma veramente vale la pena approfondire tutti, come dire, i lati della medaglia di questo stato, di questa nazione. Ma veniamo al consiglio di lettura, perché Epi nei suoi giri al Lucca Comics di quest'anno ha notato Il diario della mia scomparsa di Hideo Azuma, che è stato pubblicato in Italia con l'etichetta J-Pop Manga. Conoscerete già questo nome, Hideo Azuma, perché è l'autore che ha dato vita agli storici personaggi di Pollon e di Nana Superstar, diventati poi anime di successo, perché tutti ricordiamo certamente Pollon, e appunto ha fatto questa nuova uscita che si chiama Il diario della mia scomparsa, che Epi ci ha consigliato vivamente di leggere, quindi sentiamo direttamente le sue parole. Il consiglio della settimana. Se hai un consiglio di lettura, un qualche fumetto che ti è particolarmente piaciuto, che fa parte della tua libreria personale. Sì, allora, il fumetto che sto leggendo in questo periodo, che in realtà l'ho comprato mesi fa a Lucca Comics, anzi no, errore, a Lucca Comics ho provato a comprarlo ed era esaurito, l'ho comprato poi a Torino un mesetto dopo, è Il diario della mia scomparsa di Hideo Azuma. In realtà il libro, un fumetto molto bello, chi guarda la copertina vedrà qualcosa di familiare, perché lo stile è di Pollon, perché lui è l'autore di Pollon, il famoso cartone che andava su Italia 1. Sì. Ed è la sua biografia fumetti, in cui lui racconta anche le difficoltà di essere un fumettista a livello mentale, fisico, e racconta tutte le dietro le quinte di chi fa questo lavoro. Quindi è molto interessante, molto divertente anche, nonostante sia triste, ha una ironia proprio dell'autore di Pollon che si vede. Hai scelto questo fumetto perché lo stai appunto leggendo recentemente o perché ti ha particolarmente colpito? Perché lo sto leggendo, ma perché mi ha colpito, mi sono ritrovata in certe situazioni che mi sono detta non è successo solo a me nel mestiere, ecco. Quindi è anche utile per chi è appassionato di fumetti ma non sa il retroscena, per capire un po' magari per esempio lo stress delle scadenze, il fatto che ogni tanto uno abbia bisogno di staccarsi dal lavoro e fare altro proprio per riposare la testa. È molto interessante per chi non sa cosa c'è dietro al lavoro di fumettista. Allora io ti ringrazio tantissimo per questo tuo consiglio di lettura. Figurati, e buona lettura e buoni viaggi. Grazie. When it hurts so bad, why is it? I was all in and you was all out. I'll come back up after after this, calm down. Look me in my face and tell me the same bravado. Yeah, I let you set the pace, all I did was just follow. Yeah, yeah, you strike down all the likes, all that I didn't know about. All the times you deny, but I know now about your hideout. Well, I can't believe you thought I'd never find out. I think if you were to think about it in terms of analyzing. You said all these things. Yes. I fall in love with myself. La, la, la, la, la, la. And I want someone to share it with I me. Can't believe you thought I'd never find out about your hideout. Ore 11.02, siamo tornati in diretta sempre con Fuji Comics e sempre con la vostra Rachele Coffaroni e ovviamente sempre per parlare di fumetti. E dopo lo stacco pubblicitario abbiamo ascoltato Mahalia con Hide Out, una veramente mia nuova scoperta proprio di questi giorni. Mahalia Burkman è una cantante britannica. Questa giovane ragazza ha scritto la sua prima canzone all'età di 8 anni, pensate, e ha firmato il suo primo contratto discografico a 13 anni. Il suo album di debutto, Diary of Me, è uscito alla fine del 2016, ma in realtà il suo, come dire, successo più ampio, più commerciale l'ha avuto con il suo secondo disco Love and Compromise, pubblicato proprio a settembre 2019, con il quale per la prima volta nella sua vita è entrata nella classifica britannica degli album al 28esimo posto. Simmer è il terzo singolo estratto dal disco e anche questo ha avuto veramente un grande successo perché ha raggiunto la 46esima posizione nella classifica dei singoli. In realtà quello che abbiamo appena ascoltato è Hide Out, una canzone che lei ha composto, che ha scritto in occasione diciamo dell'invito che ha ricevuto da questo format tedesco su YouTube che si chiama Colors. Che cos'è Colors? È appunto un canale YouTube, un colosso online da 2 milioni di iscritti che ha fatto un po' della sua semplicità la sua forza, perché nel video c'è semplicemente una stanza con un colore di sfondo e un artista, quindi una stanza, un colore e un artista che diciamo si esprime con le sue parole e con la sua musica. Per quanto riguarda l'Italia, l'unico artista che è andato a rappresentare appunto l'Italia al The Colors Show è Nitro, il rapper veneto, che appunto con i suoi brani, con il suo carisma ha portato veramente l'Italia ad alti livelli al The Colors Show. Quindi vi consiglio caldamente di andare a vedere, penso su YouTube basta scrivere Colors Nitro e ha spaccato tutto, ragazzi e ragazze, quindi andatevi a vedere Nitro sul The Colors Show. E ricordiamo intanto ancora una volta le varie modalità per contattarci, soprattutto il nostro numero di telefono in cui potete mandarci un sms, un messaggino tramite WhatsApp oppure su Telegram al 333 180 9494. E non dimenticate ovviamente di seguirci sul nostro sito www.radiocittafujiko.it e anche sui nostri social a partire da Facebook e da Instagram. E torniamo a parlare di fumetti, ovviamente, torniamo a parlare di fumetti con l'ospite speciale di questa 15ª puntata di Fuji Comics. Sto parlando di Mattia Amoro, nato nel 1989 ad Ortona in Abruzzo, ma come vi dicevo nelle anticipazioni della prima mezz'ora della puntata, ormai vive e lavora a Bologna e, come dire, ha adottato bolognese un po' come me. Ha studiato tra l'ESA di San Luca Bruxelles e l'Accademia di Belle Arti appunto di Bologna, dove si è diplomato in linguaggi del fumetto. È un componente del collettivo artistico Checkpoint Charlie di Bologna. I suoi lavori sono apparsi su B-Comics, Delebile, Graphic News e altre realtà indipendenti. Nel 2016 con Graphic News pubblica Gli Scogli di Taranto, un reportage a fumetti sulla città vecchia appunto di Taranto, con il quale partecipa alla selezione OFF del Festival Internazionale di Fumetto di Bologna, il Bilbol Bull. Viene nominato al premio Micheluzzi come miglior webcomic e al premio Bartoli come migliore promessa del fumetto italiano. Nel 2017 con Hazard Edizioni pubblica La Terra Chiama in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno all'interno della collana Midi Fumetti per il Sud, che raccoglie storie di fiction ambientate in luoghi reali del Sud Italia. Lavora con festival, tante realtà indipendenti e chiunque si porti dietro qualcosa di bello, questo dice lui appunto. Con lui, con Mattia, abbiamo parlato di quartieri, viaggio al centro delle periferie italiane, fumetto edito da Becco Giallo. Si tratta di 5 storie diverse tra loro, di 5 città appunto sempre diverse tra loro, fatte, disegnate e scritte da 5 fumettisti diversi che descrivono periferie italiane dal loro punto di vista. Si parla della dimensione di confine tra la città dei ricchi e quella più popolare di San Siro a Milano, si parla del nuovo orgoglio dell'Arcella a Padova, appunto si parla di Bologna e del passato operaio, ma anche insomma di tutto ciò che riguarda la bolognina. Si parla delle mille contraddizioni di Torbella Monaca a Roma e lo stigma subito dagli abitanti dello Zen a Palermo. Appunto un'antologia di 5 racconti di 5 quartieri di 5 città italiane disseminate lungo la penisola da nord a sud, un po' per tutta Italia, in cui si cerca un po' di leggere da più dal basso, come dire, da dentro, da chi ci vive veramente in queste periferie, in questi quartieri. Si cerca un po' di studiare queste periferie d'Italia, spesso molto chiacchierate ma mai realmente ascoltate, perché molto spesso sono raccontate un po' dall'alto, un po' da fuori, da non chi ci vive realmente all'interno. Il fumetto è a cura di Adriano Cancellieri e Giada Peterle, con le storie e fumetti di Elena Mistrello, Giada Peterle, Mattia Moro, Alecos Reiz, Giuseppe Lobocchiaro e testi di Francesca Cognetti, Paolo Grassi, Elena Maranghi, Giuseppe Scandurra, Carlo Cellamare, Francesco Montillo e Ferdinando Fava. Con Mattia abbiamo parlato appunto di Bologna e della bolognina, dei cambiamenti che ha vissuto questo quartiere, che tuttora sta vivendo, di gentrificazione, della necessità di spazi in cui condividere passioni e momenti di incontro, momenti di aggregazione, di multiculturalità che caratterizza certamente il quartiere della bolognina. Abbiamo parlato di partite di basket, insomma di tante cose, quindi direi direttamente di andare ad ascoltarci l'intervista per Quartieri di Becco Giallo. Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui con Mattia Moro per parlare di Quartieri, fumetto edito da Becco Giallo, dal titolo appunto Quartieri, viaggio al centro delle periferie urbane, in cui troviamo diversi autori, 5 per la precisione, che parlano di 5 città differenti e interpretano un po' la loro visione dei vari quartieri di queste città italiane. E tu, Mattia, parli di Bologna ovviamente e della bolognina. Ti volevo chiedere come è nato innanzitutto questo progetto. Ciao a tutti, allora grazie intanto di avermi invitato. Allora, il progetto è nato, io sono stato coinvolto attraverso un ricercatore, professore universitario che si chiama Giuseppe Scandurra, che ha scritto la parte sulla bolognina, su Bologna e quindi sulla bolognina insieme a me, che è un docente di antropologia all'Università di Ferrara. Avevamo già collaborato insieme per altre cose e aveva avuto piacere di coinvolgermi in quanto abitante della Bolognina, in quanto fumettista e in quanto secondo lui potessi avere uno sguardo giusto sulla cosa. Giuseppe è stato a sua volta coinvolto da Adriano Cancellieri e Giada Petelle, che sono i curatori del libro, e tutto quanto è stato coordinato da Mattia Ferri di Becco Giallo. Io sono stato coinvolto appunto per il mio legame, diciamo, anche con il tema trattato, in primis come abitante di uno di questi quartieri, di una di queste periferie. Descrive appunto questo luogo caro a molti,

sempre un po' quello dello spiegone o comunque del racconto, sì, con le parole condito di immagini, sì, e io ne avevo già fatti anche di quel tipo, ho fatto qualche esperienza con il graphic journalism e non ci vedo niente di male assolutamente, anzi è un modo per avvicinare a delle tematiche difficili chi si spaventa anche da un blocco di testo, e in realtà utilizzare il linguaggio fumetto permette di avere una profondità anche maggiore. Però quello che mi interessava era cercare di renderla un po' più viva, un po' più narrativa la mia storia, e quindi ho preso abbastanza spunto dalle mie vicende personali. La storia è tutta su due ragazzi che si trovano in Piazza dell'Unità per giocare a basket, perché c'è un campetto molto utilizzato, molto vivo, e uno è residente, l'altro no, e in qualche modo il residente spiega a parole sue e fa vivere al non residente alcune delle cose tipiche della Bolognina, non volendo. Quindi la partita di basket con la delegazione cinese è una cosa che chiaramente mi era successa e mi succedeva spesso. Cioè, mi succede spesso andando a giocare in Piazza dell'Unità a basket, quello succede. E quindi diciamo che ho spostato un po' il focus della narrazione da una narrazione più classica, cercando di ambientare quasi tutto all'interno dello stesso posto, che secondo me è l'anima vera, il fulcro della Bolognina, condendolo di altri significati e di altre narrazioni. Però mi interessava dargli una direzione più narrativa, ed è per quello che più o meno abbiamo cambiato prospettiva. C'è stato proprio un cambio, all'inizio era completamente diversa la storia. If love had a sound, this would be that sound. Love. We would be the band to play it. My ghetto butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the hair of you. Surely there's never been a shade so blue. A stank attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Oh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry. Play that sax, Julian. Comics. Fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ore 11:37, si torna in diretta sempre con Fuji Comics e sempre con la vostra Rachele Copparoni, dopo aver ascoltato un pezzo, il pezzo willato di questa playlist della 15ª puntata di Fuji Comics. E chi è un radio amatore, radio ascoltatore di Radio Città Fujiko capirà sicuramente che cosa vuol dire un pezzo willato, quindi aggiudicato, premiato, diciamo, dal nostro William Piana. E si trattava ovviamente di I Want You Back dei Jackson 5, o successivamente conosciuti come The Jacksons, gruppo musicale statunitense formatosi negli anni 60 in Indiana, composto ovviamente dai cinque fratelli Jackson, quindi Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon, i membri, insomma tutti i membri della famiglia Jackson. Furono la prima band nella storia della musica a piazzare i primi quattro singoli consecutivamente alla posizione numero uno della classifica generale di Billboard, una delle prime artiste afroamericane ad aver successo a livello internazionale, il primo gruppo di teen idols afroamericani di fama internazionale. Insomma, veramente hanno fatto un grandissimo successo. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 portarono diversi brani ai vertici delle classifiche, soprattutto statunitensi, e divennero un fenomeno culturale giovanile che generò un sacco di merchandising con il loro nome, che li ha resi anche protagonisti, pensate, di un cartone animato, non so se ve lo ricordate,

cercando di capire un po' dove, qual era il senso, dove stavo andando, che cos'era. E che dire, io ti ringrazio innanzitutto e soprattutto per il lavoro che fate sulla Bolognina e insomma questo grande luogo di aggregazione e di incontro che create per parlare appunto di un quartiere che, come dicevo prima, da tanti è amato ma da tanti altri purtroppo è anche un po' odiato. Ringrazio te per la tua disponibilità, Mattia, e sicuramente ci risentiremo per altri progetti magari col Checkpoint Charlie. Grazie a voi, grazie a voi. Been in love before. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But get my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. Tornati in diretta dopo aver ascoltato l'ultima parte dell'intervista a Mattia Moro e soprattutto dopo aver anche ascoltato Lizzo, pseudonimo di Melissa Vivian Jefferson, cantante, rapper, cantautrice e anche attrice statunitense. Non se ne fa mancare una questa ragazza. Ha debuttato sulla scena musicale cantando per vari piccoli gruppi, ricevendo un seguito diciamo più che altro locale. Ha poi avviato la sua carriera da solista nel 2013 con il suo album di debutto Lizzo Bangers, a cui hanno fatto seguito poi il suo secondo album Big Girl Small World e l'EP Coconut Oil. Tuttavia in realtà ha ricevuto il suo successo più sensazionale facendosi conoscere dapprima con il primo singolo estratto dall'album Juicy, e l'album è il suo terzo album, Cause I Love You, e abbiamo appena ascoltato proprio una delle canzoni da cui prende il titolo anche l'album stesso. In seguito, grazie anche a altri brani come Good Good as Hell e Truth Hurts, che sono riusciti a raggiungere rispettivamente il terzo e il primo posto della Billboard Hot, diventando diciamo delle vere e proprie hit, ma soprattutto è stata una super protagonista di questi Grammy Award. Infatti ha vinto il premio come Best Pop Solo Performance e poche ore prima, durante il pre-show dei Grammy, si è portata a casa anche le statuette per il Best Urban Contemporary Album e il Best Traditional R&B Performance per Jerome. Quindi una grande ragazza con una grande voce, che appunto abbiamo appena ascoltato qui su Radio Città Fujiko. Iniziamo un po' a parlare di qualche novità in uscita nel campo dei comics e partiamo proprio da un annuncio che ha fatto la Coconino Press. È stato chiesto a gran voce e loro stessi non vedevano l'ora di accontentare tutti e tutti: la collana Fumetti nei musei è finalmente disponibile per tutti quanti. I 51 fumetti sono acquistabili da oggi sul loro sito, sul sito della Coconino Press, e saranno poi successivamente diciamo distribuite nelle librerie, nelle fumetterie e anche nei bookshop dei musei. La prima uscita dovrebbe essere il 20 febbraio, poi si completerà tutta la serie di 51 fumetti entro la fine dell'anno. Fumetti nei musei è un progetto ideato dall'ufficio stampa e comunicazione del MIBACT, realizzato in collaborazione con Coconino Press e Fandango e con il supporto di Ales Arte Lavoro e Servizi, del Centro per i Servizi Educativi e della Direzione Generale Musei. Poi nei prossimi giorni, insomma, sulle varie pagine e sul sito della Coconino Press verranno pubblicati, si parlerà dei singoli albi e dei loro autori, però è veramente una bella idea questi 51 fumetti che disegnati e scritti da diversi fumettisti e fumettiste italiane, che appunto parlano e ci raccontano un po' dei musei italiani. Ma continuiamo ancora con un po' di musica prima di parlare di altre novità, e continuiamo con un'altra voce R&B del 2019. Sto parlando di Havian Mighty, rapper canadese di Toronto in Ontario. È diventata famosa lei nel 2016 come membro di un gruppo hip hop, The Sorority, prima in realtà di pubblicare il suo EP di debutto nel 2017. Il suo album di debutto, che si intitola 13th Floor, è stato pubblicato nel 2019 appunto, e ha vinto immediatamente la Polaris Music Prize 2019. Quindi andiamo a sentirci quest'altra voce R&B, che in questa canzone Blame diventa un po' più rap che R&B, ma insomma ce l'andiamo a sentire. This shit Mighty Prince, boy. Sherman North by the hillside, Urban Folk from the sixth side, burning smoke from a bridge site, serving big lines, Virgin gal to the west coast, perfect palace, my backwards, curtains gone, she a rap book, certain bars leave man shook, the remedy of any melody, identify that I'm a genuine rarity, I'm rapping Queen Street and Kennedy, dope bars all I ever sent, foreign cars I wanna get in them, so hard or worth I never sent, Coach Carter I'm a better Ken, know that I'm flying fast like kamikaze, my throat that throttle, gone in the Maserati, I bang my song for Muhammad Ali, stand tall, yet small like Mahatma Gandhi and shit, I got regode in both of my tits, you wanna smoke in both of my splits, you wanna kiss in both of my lips, I told them like this, yeah, why you, why you? You won't say, got you, I think. I guess I'm the one to blame, I'm the one to blame, I'm the one to blame. Top, I'm about to offset shit. Made it to the bottom, that's that progress shit. You know it. This is simple concept, let me talk my shit. They think they a problem, but the problem is not even one. No, no, not even one of you know I'm the GOAT, bitch. Uh-huh. From the north, one with a coat, bitch. Yeah. Call me Neo, cause I'm so sick. Yeah. Mom and Papa, they were so strict. Right. That's until they saw my show shit. Yeah. Now they raise their fists like, go, bitch, go, bitch. Get it. You choose hate, I try joy. Pride of the coin that I earn. Your boy wanna be my boy. Your girl wanna be my girl. You should save me to your favorites and jot down my sight, Earl. You should know we in the matrix. Can we go? I got no patience. All my guys neck breaking, they know this a bop. On the mic test training, they know this my job. I'm working. All my ex type hating, they know this a swap. Still on our best behavior, they know it's a cop. Why you wildin'? You on blame? Got you hyping. I guess I'm the one to blame. I'm the one to blame. Blame. I'm the one to blame. I'm the one to blame. Why you hyping? Hyping. You on blame? Got you. Why? can blame me, no. You can I paved the way in a major way. I'm never gonna fade away. There'll never be a safer way. It's my payback, baby. I'm the one to blame. It's my payback, baby. I'm the one to blame. It's my payback, baby. I'm the one to blame. It's my payback, baby. Use your tongue, what it tastes like. Don't stop, cut the brake line. Come fuck with the waistline. Come fuck with the baseline. I don't walk in no straight line. Chillin' on the place, same time. Come fuck with the waistline. The waistline. E abbiamo appena ascoltato Javier Mighty con Blame e torniamo appunto in diretta per parlare ancora un po' di qualche novità in uscita. Questa volta parliamo dello sceneggiatore britannico Garth Ennis, sceneggiatore ad esempio di The Punisher, che è al lavoro su una nuova miniserie spin-off di The Boys, il fumetto pubblicato dalla Dynamite Entertainment che si è concluso nel 2012, su cui è poi è stato basato anche uno show live action di Amazon Prime Video nel 2019, quindi lo scorso anno, un'uscita abbastanza recente. Il titolo in realtà di questa nuova miniserie spin-off sarà The Boys Dear Becky e sarà appunto un prequel con protagonista proprio Becky Butcher, la moglie di Billy Butcher, la cui morte diciamo diede inizio alla serie originaria. I disegni della nuova storia saranno realizzati da Russ Brown, mentre Derek Robertson, co-creatore della serie, si occuperà delle copertine. Il primo numero di The Boys Dear Becky sarà pubblicata negli Stati Uniti ad aprile. In Italia la serie originaria era stata pubblicata da Panini Comics, quindi vediamo se continuerà la pubblicazione anche di questa miniserie spin-off di The Boys. Altra cosa che vi volevo segnalare, che questa volta riguarda più che altro la nostra radio, più che una novità in uscita nel campo dei fumetti e delle graphic novel, è di andare a dare un'occhiatina al nostro sito, che vi ricordo è www.radiocittafugico.it, in cui è uscito un articolo dal titolo Fumetti a Bologna, la mappa di Radio Città Fugico, in cui appunto per chi come tutti noi è appassionato di fumetti, di graphic novel, potrà trovare tutte le fumetterie presenti sul territorio bolognese in ogni zona veramente di Bologna, dalle fumetterie alle librerie anche che appunto tengono all'interno i fumetti, fino anche il collezionismo, quindi due punti vendita di oggetti da collezione in cui si possono trovare anche fumetti. Quindi se siete magari appena arrivati arrivate a Bologna, oppure se abitate tanto tempo a Bologna ma non sapete bene dove recarvi, se volete comprare un fumetto, vi consiglio di andare sul nostro sito www.radiocittafugico.it e dare un'occhiata alla mappa che i nostri redattori hanno realizzato per, come dire, barcamenarsi meglio fra le strade bolognesi e trovare la fumetteria o la libreria più vicina in cui andare a comprare il nostro fumetto preferito. E prima di andare in pubblicità ascoltiamo ancora un po' di musica. Questa volta ci spostiamo in Italia, torniamo in Italia dopo aver fatto un po' il giro del mondo con soprattutto voci femminili, rap and R&B, e torniamo in Italia con un grandissimo autore, cantautore del rap italiano e anche bolognese, sto parlando di DJ Graf e questa è Lucida Follia. Luci da follia, luci da follia, luci da follia. Messo in lavatrice sul programma freddo. Datemi una sciarpa, c'ho paura che mi ammalo. Sto tremando, questa schiumetta viscida mi ha ormai inzuppato. Come i biscotti dentro il latte che ho sboccato. Le previsioni sono marroni, non ti sento. Non rompere i coglioni,

questa vita ed è per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai. Ho pensato vai. Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto nomi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni e vaffanculo, mi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo, non mi serve la boccia di vetro. Merda, già vi vedo, fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita è per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo. Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti e vai. Eccoci qua, 12:09, anzi 12:10 appena scoccate su Radio Città Fujiko con Fuji Comics e con la vostra Rachele Copparoni. E nel frattempo, ragazzi e ragazze, sta salendo un caldo clamoroso. Io inizialmente ero contenta di questa giornata, di questo mercoledì così bello, così caldo, così quasi primaverile, ma poi è sopraggiunta l'ansia, la paranoia e da riscaldamento globale che mi sta veramente sopraffacendo. Sono veramente preoccupata in questo momento, perché come dicevo prima, questi sono i giorni della merla, i giorni in cui dovrebbe fare freddo, a fine gennaio dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno e invece sembra quasi primavera. Ci sono gli uccellini che vanno in giro da albero a albero, le farfalle, insomma, se si chiude gli occhi e non si pensa che è il 29 gennaio, sembra veramente primavera. Ma a parte la preoccupazione dal riscaldamento climatico, parliamo di cose belle, parliamo di Willy Peyote con la sua Che bella giornata, che è quello che abbiamo appena ascoltato. Willy Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, rapper, cantautore italiano. Il suo nome d'arte unisce Willy e il coyote con il peyote, questa pianta, diciamo, allucinogena proveniente dall'America settentrionale. Willy è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo, ovviamente, quindi è un po' l'unione di queste parole. Avvicinatosi al rap nel 2004 dopo aver sperimentato altri generi musicali tra cui anche il rock e il punk, decide di fondare il gruppo SOS con gli amici Cava e Shula. Con loro pubblica diversi demo e un EP intitolato L'erba voglio nel 2008, e appunto lui stesso dice: ho iniziato suonando il basso in una band punk rock, il rap mi ha folgorato solo durante gli ultimi anni delle superiori. All'inizio cercavo di mettere un po' di rap nei miei pezzi suonati e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap. E siamo ormai giunti all'ultima mezz'ora di questa quindicesima puntata di Fushi Comics e quindi, come sempre, come da consuetudine ormai, quest'ultima mezz'ora troviamo tutti gli eventi bolognesi da questo mercoledì fino al prossimo, tutti gli eventi di presentazione di fumetti, di graphic novel, di incontri con gli autori, di firma copie. E quest'oggi siamo arrivati fino a Milano per la Fiera del Fumetto, che si terrà appunto questo fine settimana, quindi, se non mi sbaglio con i giorni, l'1, il 2, il 2, il 3, adesso non mi ricordo, mi perdo con i conti dei giorni della settimana, comunque questo sabato e domenica a Milano. Quindi, amici e amiche bolognesi, se vi dovete recare a Milano per qualche questione di viaggio o di lavoro e avete un po' di tempo libero, vi consiglio insomma di andare a questa grande Fiera del Fumetto che si trova appunto a Milano. Quindi diciamo di andare direttamente ad ascoltare Teresa e la sua voce, che ci elenca tutti gli appuntamenti bolognesi e non solo, anche milanesi, di questa settimana. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Fuji Comics. Io sono Teresa e bentornati nell'agenda degli appuntamenti della settimana nell'ambito dell'illustrazione e del fumetto. Partiamo con mercoledì 29 gennaio alle ore 19 presso la libreria Modo Infoshop in via Mascarella 24B. Presentazione di Quando tutto diventò blu di Alessandro Baronciani. Valerio Stivene parla con l'autore. Chiara, la protagonista di questo libro, ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura di avere paura. Alessandro Baronciani sviscera il processo emotivo che porta Chiara sempre più nell'abisso della rimozione della realtà, per non sentirsi costretta ad affrontare la propria condizione, e poi mostra al lettore uno spiraglio, sperando che anche Chiara lo veda e decida di agire. Una storia di paura e di coraggio e di come debbano coesistere perché la guarigione sia possibile. Sabato 1 febbraio al Polpa Studio in via dei Chiari 5B alle ore 14, workshop di incisione, stampa sul linoleum. Il workshop è rivolto ad un pubblico adulto che ha voglia di avvicinarsi alla tecnica dell'incisione sul linoleum con il fine di produrre delle stampe personali partendo dai propri disegni ed elaborati più o meno complessi. L'incontro sarà suddiviso in una prima parte esplicativa, dove si faranno vedere gli strumenti di lavoro e come approcciare la creazione dei timbri. Dopo aver lavorato sul materiale, si stamperà direttamente su carta e tessuti. Manda un'email a giulia.polpastudio@gmail.com per ricevere la scheda di presentazione con la procedura di iscrizione. Il costo è di 70 euro per l'intera giornata. Sempre sabato 1 gennaio alla Galleria 16 in via Nazario Sauro 16A alle ore 20, This is not a love song, it's much more, un'esposizione ragionata di canzoni d'amore illustrate dai migliori fumettisti italiani. La nuova mostra, curata da Gallery 16 insieme ad Andrea Provinciali di This is not a love song, espone una trentina di tavole originali illustrate da artisti italiani che hanno come soggetto le canzoni d'amore. Per l'occasione, il cantautore Giovane Giovane presenterà il suo debut album Yugoslavia. Andiamo fino a Milano per il Festival del Fumetto, Comics Game Expo, l'1 e il 2 febbraio al Parco delle Esposizioni in Novrego. Sono oltre 20.000 metri quadrati del Festival del Fumetto, un percorso che si snoda attraverso tutto l'universo del mondo dei comics all'interno dei padiglioni espositivi. Sono migliaia i prodotti presentati, fumetti, manga, anime, gadget, action figures, card, abbigliamento, nuova area videogames con realtà virtuale, villaggio cosplay, horror, stage lezione di fumetto, card contest, area ludica, villaggio Giappone, food. Ultimo appuntamento, mercoledì 5 febbraio alla Confraternita dell'Uva in via Cartoleria 20B alle ore 19. Gloria Bardi presenta il graphic novel Exit, dossier sul fine vita, Decco Giallo Editore. L'autrice ne parla con Andrea Ruggeri, coordinatore del Circolo UAR Bologna. Questi erano tutti gli eventi della settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

Sono le 12:21, è giunta ormai l'ora di pranzo, qua la fame sale, gli aerei passano, salutiamo Ryanair, beati loro, chissà dove stanno andando oppure se stanno tornando da una vacanza o magari sono stranieri che vengono in vacanza qui a Bologna, qui in Italia, comunque beati loro in ogni caso e spero che come sempre non si sia sentito troppo l'aereo che passa alle mie spalle. Ma dicevamo, ormai siamo giunti all'ultima parte di Fuji Comics e siamo arrivati un po' ai saluti finali, perché termina anche questa 15ª puntata di Fuji Comics. Che dirvi, vi auguro ovviamente come sempre, anzi prima vi ringrazio come sempre, ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, vi auguro una buonissima giornata, un buon pranzo e mi raccomando rimanete sempre in ascolto perché ora arriverà il GR Iskra, quindi tutte le notizie dall'Italia e dagli esteri e poi successivamente il Last Minute, il nostro contenitore culturale di eventi, insomma il contenitore che contiene tutti quanti gli eventi culturali, musicali e cinematografici di oggi a Bologna. Ma prima di salutarvi definitivamente vi lascio con l'ultima canzone che racconta una grande storia d'amore con anche grandissima delicatezza tra due persone che si sono incontrate e innamorate subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che hanno trascorso l'intera vita insieme fino alla morte. Sto parlando della canzone La vita dopo la notte di Murubutu. Murubutu è lo pseudonimo di Alessio Mariani, rapper e cantautore italiano e anche professore di filosofia se non mi sbaglio, fondatore e voce del collettivo reggiano La Cattiveria. La sua musica viene definita rap di ispirazione letteraria o letteratura rap ed appunto la caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri rapper italiani e lo rende unico nel suo genere perché unisce l'hip hop, il rap con la letteratura, la storia e appunto come dicevo la filosofia essendo lui anche un professore e crea queste storie metaforiche molto complicate, molto lunghe e qua nella vita dopo la notte racconta appunto con una sensibilità straordinaria e con parole veramente commoventi cosa significa stare insieme per una vita intera, essere così vicini l'uno con l'altra e mi sembrava anche un bel modo un po' dolce così per chiudere questa 15ª puntata di Fuji Comics, quindi vi lascio all'ascolto di Murubutu con La vita dopo la notte di produzione Il Tenente e noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza sempre su Radio Città Fujiko. Ciao a tutte e a tutti. La nottata che inondava come lava quella strada e la sua casa bianca in via Pascal. Nel tempo l'aria era cambiata e la città si era ingoiata, la campagna circondata da palazzi e bar e fuori il mondo cambiava, là intorno alla casa, poi giorno per giorno il contorno, Vittorio guardava lassù il davanzale, sua moglie in soggiorno cantava un'aria in fa di Bach. Donata amava la rugiada che imperlava l'agenziana germogliata ed invidiata in tutto il boulevard e il suo sorriso un po' attempato, un'alba ambrata che sorgeva ogni giornata dentro i margini del suo foulard. A volte lui domandava, l'hai immersi nell'ava, che pensi Donata? La notte è un codice, chiama i tuoi occhi non i cengiata. Intanto lo guardava e gli diceva ancora, resta con me se stai con me tu questa sera. Il sole non c'è, non c'è là fuori e notte, il buio impera.